Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io sono credente, credo in Dio, credo in Gesù Cristo, il suo Vangelo. Per me il cuore del Vangelo è dei poveri. Ho sentito due mesi fa che una persona ha detto per questo, no? Per parlare dei poveri, la preferenza questa, ma questo Papa è comunista, no? No. Questa è una bandiera del Vangelo, non del comunismo, del Vangelo. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, finiamo così la settimana, quindi, con il Papa che vuole spiegare che lui non è comunista, ma che il pensare ai poveri è un principio del Vangelo, penso dovrebbe essere un principio di tutti. E al principio di questa puntata, tra i tanti temi che tratterò stasera con gli ospiti, vi ricordo una cosa particolarmente interessante. È tutto naturalmente interessante, affetto note, non perdete per nessuna ragione mai alcuna puntata, ma in particolare questa sera, dopo le 21:15, parleremo del certificato antipedofilia. È una cosa imminente, una cosa che scatta da lunedì. Chiunque assuma delle persone che avranno a che fare in varia natura, insomma, con i minori, dovrà chiedere il casellario giudiziario, che dovrà dimostrare che non, queste persone, donne o uomini che siano, non abbiano precedenti di pedofilia. E, pensate, riguarda molte più categorie di quanto uno possa credere. Infatti si è sentito il presidente del CONI Malagò e poi il sindacato dei collaboratori familiari, insomma tante categorie, tante persone che si preoccupano, perché dicono, per carità, siamo tutti naturalmente contro la pedofilia, ma questa cosa è così imminente, si pagheranno anche delle multe salatissime se questa direttiva europea non verrà recepita a pieno. Insomma, cerchiamo di capirne un po' di più tra poco. Voi non perdete appunto effetto note e non perdete neanche quello che vi faccio sempre all'inizio, il riassunto della giornata. Crisi allo studio della Banca Centrale Europea, misure per 1.000 miliardi per combattere la bassa inflazione, spread italiano sotto i 160 punti, il tasso dei BTP scivola al minimo storico. Compagnie aeree, Bruxelles apre un'indagine su investimenti stranieri nelle compagnie europee, la Commissione chiede al governo italiano di vigilare su Etihad. Discarica di Bussi, il PM durante il processo accusano noti da 40 anni gli effetti devastanti del sito chimico vicino Pescara. Afghanistan sale il pericolo di attentati nel paese in vista delle elezioni di domani, uccisa oggi una giornalista tedesca. Pedofilia, da lunedì scatta l'obbligo per le assunzioni di persone che lavorino a contatto con i minori di certificato antipedofilia. Secessionisti veneti arrestati, il loro leader si dichiara prigioniero di guerra davanti al giudice. Iniziamo quindi dalle notizie economiche, a partire dal rendimento dei BTP decennali che ha raggiunto il minimo storico al 3,15%, battendo il precedente minimo toccato nel 2005. Intanto ci sono importanti novità sulle misure che la Banca Centrale Europea starebbe esaminando per combattere la bassa inflazione. Mario Draghi l'aveva annunciato ieri. Siamo pronti a misure straordinarie. E le prime anticipazioni del quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung confermano che Francoforte non scherza. La Banca Centrale Europea avrebbe condotto una serie di simulazioni con diversi modelli di calcolo per l'acquisto di 1.000 miliardi di titoli allo scopo di combattere lo spettro della deflazione e ridare ossigeno a un'inflazione in caduta soprattutto nei paesi meridionali. Il piano di allentamento monetario, secondo i risultati visionati dalla FATS, avrebbe l'effetto di aumentare l'inflazione nell'eurozona in una forbice compresa tra i 2 e gli 8 decimali a seconda degli scenari più ottimisti o pessimisti. Secondo le informazioni a disposizione del quotidiano tedesco, le simulazioni sono state condotte su volumi di acquisto fino a un massimo di 1.000 miliardi nel giro di un anno, 80 miliardi al mese. Il tutto in una giornata che ha registrato buone notizie per l'Italia sul fronte dei mercati. Lo spread è scivolato sotto quota 160 punti, aggiornando i minimi da giugno 2011, mentre il rendimento del BTP decennale ha toccato sul mercato secondario un nuovo minimo storico sotto il 3,19%. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E naturalmente passiamo alla politica italiana. Matteo Renzi è salito questa mattina al Quirinale, dove è rimasto per circa un'ora a parlare col capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Sentiamo di cosa ha parlato. Un colloquio ma anche un via libera. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi sale al Quirinale per fare il punto con il Capo dello Stato Giorgio Napolitano, in primis l'iter del processo delle riforme costituzionali e il DEF all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri. Sulle riforme il Governo è sempre più all'attacco, Renzi promette di essere un rullo compressore ed è fiducioso che il patto con Silvio Berlusconi tenga. Diverso il parere di Forza Italia, Renato Brunetta. No, Renzi non sta mantenendo gli impegni. E quando un contraente non mantiene gli impegni, è certo che non ci fidiamo più. È un imbroglio, come l'imbroglio delle province di ieri. Il ministro Maria Elena Boschi critica invece il ruolo dei professori. Trovo legittimo che Rodotà abbia cambiato idea, anche se nell'85 fu lui il firmatario della proposta di legge che voleva abolire il Senato. Dopo essere salito al Colle, invece, Renzi va oltre Tevere per incontrare Papa Francesco, un colloquio privato in Vaticano durato 45 minuti. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Dalla tappa napoletana del suo tour in vista delle europee, Beppe Grillo torna a sparare a zero contro Renzi e Berlusconi. Sono finiti attacchi il leader del Movimento 5 Stelle, secondo il quale in particolare Renzi dovrebbe andare al 41 bis per le menzogne che ha raccontato al paese. Sicuro della vittoria alle europee, l'ex comico ribadisce anche il suo no ad ogni ipotesi di dialogo sulle riforme. Vinciamo senza ombra di dubbio, porteremo più parlamentari di tutti, sono 75, se ne portiamo uno più del PD abbiamo vinto le elezioni in Italia e andremo là agguerriti. Assolutamente oggi il no è la forma più semplice e più pura della politica. A replicare per conto del PD è il vice segretario Guerini, che dice: Grillo è in difficoltà, noi rispondiamo con i fatti nell'interesse degli italiani. Credo che l'insulto libero che viene proposto all'Italia a piene mani da parte di alcuni sia semplicemente la constatazione del nostro lavoro, del lavoro che sta facendo il governo, che è il lavoro che sta facendo il Partito Democratico, un lavoro di grande cambiamento che sta spiazzando molte realtà politiche nel nostro paese, soprattutto coloro i quali pensavano di essere il motore del cambiamento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. A proposito invece di revisione della spesa, di spending review, oggi il Consiglio dei Ministri ha deciso la chiusura di 4 ambasciate, decise anche delle misure per risparmiare energia. Sono 5 provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Spending Review. Tra questi il via libera a un decreto legislativo per la promozione dell'efficienza energetica secondo gli obiettivi posti dall'Unione Europea di una riduzione dei consumi del 20% entro il 2020. Il decreto prevede tra l'altro interventi annuali di riqualificazione energetica sugli immobili della pubblica amministrazione e la previsione dell'obbligo per le grandi imprese di eseguire diagnosi di efficienza energetica. Il CDM ha anche approvato il taglio dei distacchi e dei permessi sindacali dei dirigenti pubblici, parametrando il numero agli organici attuali, si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, fortemente ridotti nel corso degli anni rispetto al contratto collettivo nazionale 2004-2005. Soppresse poi 4 ambasciate, quelle in Repubblica Dominicana, Honduras, Islanda e Mauritania. In questi ultimi due paesi, a dire il vero, l'Italia non ha un'ambasciata, bensì un consolato onorario, e dunque probabilmente alla chiusura di questi consolati che si riferisce Palazzo Chigi nel comunicato. Non poca delusione e polemica ha suscitato l'annuncio della soppressione dell'ambasciata di Santo Domingo, dove vive una foltissima comunità di nostri connazionali e dove solo nel 2013 sono arrivati circa 80.000 turisti italiani. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo un po' sull'economia, perché oggi Christine Lagarde, in un'intervista al Corriere della Sera, la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, ha detto: l'Italia è uno dei paesi della zona euro che incoraggiano meno la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Un cambiamento di rotta, dice, potrebbe avere effetti benefici sulla produzione di reddito aggiunto e quindi sull'uscita dalla stagnazione. Insomma, dice, per quanto riguarda il lavoro delle donne, voi italiani siete tra i peggiori. Il Consiglio dei Ministri ha deciso lo scioglimento del Consiglio Comunale di Battipaglia in provincia di Salerno per l'ingerenza della criminalità organizzata. E ora Bruxelles, dove migliaia di persone, 30-40.000, hanno manifestato oggi contro la politica economica europea. Intanto la Commissione interviene sul settore aereo per salvaguardare le regole europee su proprietà e controllo delle compagnie europee. Bruxelles ha scritto alle autorità italiane nell'ambito della trattativa in corso tra Alitalia e la compagnia araba Etihad. La Commissione chiede di essere vigili a riguardo. Frenata improvvisa nell'accordo tra Etihad Airways e Alitalia. Il pluriannunciato accordo preliminare tra le due compagnie non è stato ancora firmato, contrariamente a quanto sostenevano molti protagonisti della trattativa. I contatti tra Roma e Abu Dhabi proseguono, ma l'intesa non c'è ancora. La compagnia degli Emirati Arabi ha posto condizioni molto dure per dare avvio al negoziato in esclusiva con Alitalia. Tra queste, la ristrutturazione dei debiti bancari per almeno 400 milioni di euro, ma le banche, Intesa San Paolo e Unicredit, si oppongono e non vogliono fare sacrifici. Altro capitolo delicato, gli esuberi. Etihad non si accontenta dei contratti di solidarietà e della cassa integrazione integrazione per 2 anni, ma vorrebbe un calo strutturale dei costi industriali di Alitalia. La telenovela prosegue e i colpi di scena probabilmente non sono finiti. Gianni Dragoni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi passiamo alla maxi discarica di Bussi in Abruzzo. È stata in corso per ore oggi davanti alla Corte d'Assise di Chieti la requisitoria dei PM per il processo sulla discarica dell'ex Monte Edison. È durata 7 ore questa udienza. Ancora prima della richiesta di condanna sono pesanti le accuse mosse dai magistrati fin qui, ma di questo parleremo, un altro tema molto interessante di questa sera, parleremo in modo approfondito dopo. Spostiamoci all'estero, la fotografa tedesca dell'agenzia americana Associated Press Anya Niedriganus è stata uccisa nell'est dell'Afghanistan oggi da colpi di arma da fuoco sparati da un uomo che indossava una divisa da poliziotto. La sua collega, la giornalista canadese Katie Gannon, è stata gravemente ferita. I talebani afghani hanno ribadito oggi che in occasione delle elezioni presidenziali e provinciali di domani un'ampia gamma di attacchi saranno lanciati in tutto il paese. Sentiamo l'analisi di Alberto Negri. Gli afghani votano domani alle presidenziali per designare il successore di Hamid Karzai, ma soprattutto votano contro la paura delle intimidazioni, degli attentati, degli omicidi a sangue freddo organizzati dai talebani. Cosa significhi tutto questo in un paese dove le truppe americane e la NATO si ritireranno alla fine del 2014? Lo si è capito oggi in maniera tragica e dolorosa quando Nakibullah, un uomo con la divisa da poliziotto, ha ucciso nella provincia di Khost la fotografa tedesca Anya Niedriganus e ha ferito gravemente la giornalista canadese Katie Gannon. Anya aveva dedicato la sua vita a raccontare i conflitti in Iraq, in Libia, in Gaza, Cisgiordania. Con i suoi scatti aveva documentato l'Afghanistan, avvicinando al grande pubblico tutta la complessità e il dramma di un paese che ha vissuto l'occupazione sovietica, la guerra civile, il regime dei talebani e poi anche l'invasione americana. Andando alle urne, gli afghani rendono omaggio anche a questa fotogiornalista che è stata premio Pulitzer, ma soprattutto una donna di grande coraggio e umanità che amava il suo lavoro e l'Afghanistan. E c'è un altro paese sempre in situazioni terribili, nonostante ce ne si dimentichi spesso, dell'Iraq, è anche un altro paese tra l'altro in clima preelettorale. Oggi in una serie di attentati nella capitale Baghdad e nelle aree a maggioranza arabo-sunnita, nel nord-est, nel nord e nell'ovest del paese, hanno ucciso 15 persone. Il voto è previsto per il 30 aprile e pensate che quest'anno in Iraq sono state uccise finora più di 2.300 persone, a proposito di paese appunto dimenticato. Siamo all'India, un tribunale di Mumbai ha condannato oggi a morte 3 uomini accusati dello stupro di una giornalista che stava fotografando un'area dismessa della metropoli. Si tratta tra l'altro di 3 giovani che erano stati già condannati all'ergastolo per aver aggredito un'altra donna e non si capisce quindi come abbiano potuto fare anche quest'altra cosa, se dovevano essere in carcere. Ma parliamo a questo punto dell'aereo malese che è scomparso lo scorso 8 marzo. Saranno le più costose della storia le ricerche per localizzare la scatola nera del volo Malaysia Airlines MH370, l'aereo scomparso nel nulla l'8 marzo scorso con 239 persone a bordo. Potrebbero infatti superare di 10 volte i 40 milioni di dollari che vennero spesi da Francia e Brasile per recuperare la scatola nera e le salme del volo Air France 447 precipitato nell'Oceano Atlantico nel 2009. Nella maxi operazione di ricerca dell'aereo della Malaysia Airlines saranno impegnati 14 aerei e 9 navi affiancate da 2 vascelli e da un sottomarino nucleare britannico con capacità avanzate di ricerca subacquea. Dovranno scandagliare le acque nel sud dell'Oceano Indiano, dove si ritiene che il Boeing sia precipitato. L'area marina da setacciare è vasta circa 300.000 km quadrati, un'area pari quasi alla Norvegia. Intanto, in queste operazioni di ricerca tra le più complesse che il mondo abbia mai visto, l'Australia ha accettato di essere il rappresentante accreditato della Malaysia. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere una notizia che è piuttosto buona a proposito di Michael Schumacher, ne abbiamo parlato anche ieri, sembra che stia facendo dei progressi e mostra, così dicono i bollettini, mostra segni di coscienza e di veglia. Bene, a questo punto ci possiamo fermare, tra poco i vari temi, vi dicevo, in particolare questo che riguarda il certificato antipedofilia, chiamiamolo brevemente così, che scatta proprio da lunedì e che riguarda molte categorie ed è obbligatorio per l'assunzione di persone che in vario modo possono avere a che fare con i minori. Ci sono state tante reazioni, a partire dal CONI, dal presidente Malagò, ma anche dalla CEI, dai vescovi. C'è per esempio un ascoltatore, per rispondere anche a questo ascoltatore, che dice, vediamo se lo ritrovo il messaggio, dice: certificato antipedofilia, scommettiamo che i Vaticans saranno esentati. In realtà la CEI chiede chiarezza, chi deve presentare questo certificato? Questa domanda risponderò tra poco con gli ospiti. Vi ricordo, sempre per i vostri messaggi e le vostre opinioni, due i canali, la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i messaggi al 349-238-6666. Viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Dunque, come vi dicevo, tra poco parliamo di questo tema che ha scatenato molte reazioni e molte perplessità, quantomeno. Ve ne parlerò tra pochissimo con gli ospiti che man mano si stanno collegando. Vi ricordo però quali sono stati i fatti principali della giornata. Renzi è stato un'ora da Napolitano e dice avanti con le riforme e presenterà il documento economico e finanziario per la spending review che va avanti. Ci sono stati anche dei tagli alle ambasciate e la Farnesina infatti ne ha chiuse 4. La BCE è pronta all'acquisto di bond per 1.000 miliardi, effetto Draghi sullo spread, il tasso di BTP è al minimo storico. Il Movimento 5 Stelle sceglie i 73 candidati alle europee, 33.000 al voto online, che hanno votato in 33.000, blitz di Grillo alla discarica di Malagrotta, dice nessun dubbio, vinciamo noi. Afghanistan, uccisa una fotoreporter tedesca dell'Associated Press, preso l'uomo in uniforme della polizia che ha sparato. Discarica di Bussi, i PM durante il processo accusano noti da 40 anni gli effetti devastanti del sito chimico vicino Pescara. E poi i secessionisti veneti arrestati, il loro leader si dichiara prigioniero di guerra davanti al giudice. Bene, vi dicevo allora, in cosa consiste questo certificato? Ne è arrivata notizia oggi e si è creato un certo subbuglio. Da lunedì 7 aprile prossimo, chi assume personale impiegato in attività professionale o volontarie organizzate con minori dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al lavoratore per verificare che questi non abbia commesso reati contro i minori, quindi dalla prostituzione alla pedofilia. Lo prevede il decreto legislativo 39/2014 in vigore già da domenica 6 aprile, quindi da dopodomani. È previsto dal decreto che attua una direttiva europea in materia di lotta alla pedofilia e, vi ho detto, scatta solo di fronte alla stipula di un contratto di lavoro e non dove ci si avvalga di forme di collaborazione. Non grava quindi su enti e associazioni di volontariato, pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari. Questo, a precisarlo, poi è stato nel pomeriggio la circolare del Ministero della Giustizia. E vi dicevo che hanno reagito in varie categorie, presidente del CONI Malagò, che ha detto: sono profondamente rispettoso delle leggi e delle norme, in particolare quelle contro gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori, tuttavia non posso, dice Malagò, non rilevare che il decreto legislativo che andrà in vigore da domenica rischia di bloccare l'attività di 100.000 associazioni sportive. E poi anche l'associazione sindacale datori di lavoro dei collaboratori familiari, che tra poco sentiremo. E vi dicevo anche la CEI, la conferenza episcopale dei vescovi, che andrà detto qui sono necessari chiarimenti, l'obbligo di certificato per chi, si chiede la CEI in apertura del sito. Bene, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Saluto l'avvocato Giampiero Falasca. Ciao Giampiero. Sì. Benvenuto, giuslavorista ed esperto per il Sole 24 Ore. E c'è Teresa Benvenuto, buonasera anche lei, benvenuta. Buonasera. Segretaria nazionale di Assindat.Golf. Diciamo, è una sigla un po' complessa, e adesso di là ai discorsi, benvenuto, che è l'associazione sindacale, insomma, dei datori di lavoro dei collaboratori familiari, giusto? Sì, è così. Bene, allora intanto vorrei chiedere a Giampiero Falasca se ci inquadri. Io più o meno ho tentato all'inizio, insomma, di dire le cose essenziali di questa legge che ha, cosa posso dire, spaventato molti, non perché pedofili, ma per capire, visto che è una cosa che è imminente, scatta lunedì all'inizio della settimana e tanti si sentono un po' presi in contropiede con questa cosa. Esatto, allora intanto dico, l'hai raccontata benissimo. benissimo. Fammi dire prima di entrare nel contenuto che diciamo, io un po' mi stupisco dello stupore, perché le norme si conoscono con un grande anticipo sia nella fase di preparazione sia quando poi prima di andare in Gazzetta Ufficiale vengono approvate, quindi arriviamo sempre un po' tardi sulle cose, no? Siamo il paese delle scadenze. Ma noi arriviamo, arriviamo nel senso a livello governativo? Non noi, no. Dico gli enti, chi noi. Diciamo, chi si lamenta oggi, tutto sommato queste cose vanno seguite con un po' di anticipo, non si può arrivare alla domenica dicendo non l'ho scoperto oggi, però questo è un altro conto. Andiamo al contenuto. Cosa dice il decreto? Che attua, appunto, come hai detto benissimo, la direttiva 93 del 2011, dice che chiunque impiega, usa questa parola, persone che hanno contatto diretto e continuativo con i minori, deve richiedere a queste persone un certificato penale del casellario giudiziario. Da questo certificato penale devono risultare quattro cose, cioè l'assenza di condanne da pornografia minorile, da detenzione immateriale pornografico, da turismo sessuale o da adescamento di minori. In aggiunta, quindi, non ci devono essere queste quattro condanne. Il certificato del casellario dice la nostra storia penale, quante condanne ha avuto e su cosa. Ce l'abbiamo tutti. Sì, chiunque di noi può andare a chiedere un certificato e la famosa fedina penale. La fedina penale. C'è scritto, auspicabilmente ci dovrebbe essere scritto, se non abbiamo fatto nulla, magari abbiamo, esatto, o comunque reati di diversa truffa, non è un problema. Se invece c'è uno di questi quattro reati, allora vediamo poi che succede. Scusa Giampiero, ma se uno fosse un rapinatore, però non è un problema ai fini del decreto. Il decreto si preoccupa perché qua, diciamo, la finalità è evitare che le persone che hanno fatto reati specifici su minori di abusi sessuali vadano a svolgere mansioni che comportano il contatto con i minori. Quindi è specifica e diretta la questione. In più deve risultare, sempre dal certificato, l'assenza di misure interdittive, di divieti di stare a contatto con i minori, perché a volte può accadere che un pedofilo o chi ha commesso determinati reati subisca la misura interdittiva. Che guarda che questo principio sconvolge la regola tradizionale per cui non si possono commettere indagini sulla fedina penale al momento dell'assunzione, ma è un principio sacrosanto, viene dall'Unione Europea per prevenire questi rischi. Che cosa è successo oggi e perché è intervenuto il Ministero della Giustizia? Il subbuglio, diciamo, è scoperto perché le aziende, il CONI, la CEI, un po' tutti si sono accorti il ritardo della norma e hanno detto, ma siccome si dice che tutti sono soggetti a questo obbligo, anche le associazioni di volontariato, che succede per chi fa il volontario? Cioè, ok quando c'è un rapporto di lavoro, ma per chi fa il volontario che succede? Il Ministero di Giustizia oggi ha scelto, cioè ha detto, a fronte di una frase un po' imprecisa, dice chi impiega personale, dice questo vuol dire che se tu una persona, adesso lo semplifico ma neanche tanto, la paghi per svolgere un'attività, quindi ha un contratto di lavoro subordinato autonomo, allora c'è l'obbligo, che tu sia volontariato o non volontariato, cioè quello che conta è il contratto. Se invece questa persona fa il volontario puro e quindi non ha un contratto di lavoro, non c'è l'obbligo di chiedere il certificato. Sebbene Giampiero Falasca, è chiaro che un volontario può essere il migliore del mondo, ma non è garanzia se è volontario che non sia pedofilo, insomma, no? Devo essere d'accordo, cioè sono d'accordo con te, io non discuto sulla misura se sia giusta o meno, ma certo se noi stabiliamo il principio che è il contratto di lavoro che fa il discrimine sulla pericolosità, la logica non c'è. Sì. Potremmo discutere sul fatto che impatta, poi così chiudo e poi magari sentiamo benvenuti. Però è importante questo aspetto. Poi il Ministero di Giustizia sempre oggi ha detto non si blocca nulla da lunedì, perché è sufficiente che le persone vadano a richiedere il certificato, in attesa che poi questo sia emanato e possono dire di averlo richiesto e possono autocertificare. Dove si richiede il certificato? Ma è in tribunale, nel tribunale penale, e in qualche giorno si ottiene, credo si paghi una marca da bollo, però hai fatto un'osservazione sacrosanta. Mi chiedo per quale motivo il volontario non deve attestare. Se è uno strumento valido, e tutto sommato non è banale come principio, perché io mi sento più garantito, io ho dei figli, da un principio del genere. Io lo difenderei questo principio. Siamo che valga sommersi per tutti, chiaramente. Esatto, che non si è pagato siamo sommersi di burocrazia, siamo sommersi di adempimenti, ma una volta tanto che un adempimento ha una finalità direi condivisibile e non fa male a nessuno, io non starei attento prima di lamentarmene troppo. Sentiamo allora il punto di vista di Teresa Benvenuto, che vi dicevo segretaria nazionale di Assindatcolf, che è l'associazione sindacale dei datori di lavoro per i collaboratori familiari. Quindi ci sono dentro anche le babysitter, ma anche i cosiddetti colf. Benvenuto. Sì, noi non discutiamo la bontà della norma, che nella sua idea originaria apprezziamo anche molto. E il problema è che è stata recepita in maniera molto stretta e obbligatoria in Italia rispetto alla normativa europea, per cui da una opportunità che si dava al datore di lavoro di poter accedere a dei dati sensibili del proprio dipendente si è passati ad un obbligo in capo al datore di lavoro di adempiere ad un controllo sull'entità di questa persona, che giustamente mettiamo in contatto con i nostri figli, e però demandando totalmente al datore di lavoro ogni onere di questa attività. Quindi con le attività burocratiche e amministrative da porre in essere e le sanzioni non certo indolori se non si rispettano i tempi e le modalità contenute. Adesso parliamo delle sanzioni, Benvenuto, mi scusi, ma quindi è il datore di lavoro che va a richiedere per quel dipendente il certificato? L'onere, la norma prevede che sia il datore di lavoro a fare richiesta, non al lavoratore, di esibire un certificato, ma al tribunale. Quindi ne ha l'onere di fare innanzitutto di chiedere al dipendente se lo autorizza a fare una richiesta di questo genere, e quindi ha bisogno di raccogliere questa autorizzazione dalla persona che vuole assumere, poi deve fisicamente recarsi presso il tribunale, pagare delle marche da bollo per chiedere di avere il certificato in tempi brevi o in tempi un po' più comodi, quindi con un pagamento anche di una marca supplementare, con un costo supplementare, e attendere che questa arrivi per essere tranquillo. In realtà nella nota di cui parlavamo prima del Ministero di Giustizia che è arrivata oggi si dice che l'adempimento del datore di lavoro è diciamo valido ai fini dell'assunzione già nel momento in cui fa richiesta e chiede a questo lavoratore una autocertificazione che lui non abbia condanne penali in capo agli articoli citati negli articoli penali. Teresa Benvenuto, quindi mi perdoni, voi che cosa chiedete? Un rinvio? Chiedete di modificare la cosa? Noi innanzitutto siamo rimasti sconcertati perché è vero che le norme si conoscono prima, ma noi abbiamo un controllo su quella normativa che riguarda il lavoro. Questa è una normativa che va contro la lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori, per cui non avevamo nessuna idea che potesse impattare sull'attività lavorativa. Comunque il fatto che impatti sul lavoro lo abbiamo rilevato, ma abbiamo tutti i dubbi del caso, perché appunto, come diceva lei nella domanda, sono da considerarsi incluse in questo adempimento solo le famiglie che assumono babysitter e quindi che hanno contatto con i bambini, oppure le rare istitutrici, oppure dobbiamo considerare anche il personale relativo alla gestione della casa e della famiglia in genere, dove sono presenti anche i bambini, quindi anche le colf, oppure anche le badanti che fanno parte della nostra famiglia quando ci sono degli anziani che si interfacciano con la presenza di bambini. Quindi è un ambito molto variegato. È anche da applicare, da far applicare ad una platea varia e vasta come quella delle famiglie, dove questa informazione non per nostra mancanza, ma in generale non è arrivata sul territorio. Teresa Benvenuto, allora, visto che ci rimane ancora un minuto, chiedo di chiudere a Giampiero Falasca. Quindi anche le famiglie dovranno andare in tribunale a richiedere se assumono una babysitter, il collaboratore domestico, eccetera. Sì. Vorrei dire su questo due cose. Primo, che si parla del tipo del contratto di lavoro, quindi i rapporti in corso non mi paiono toccati. Secondo, direi che i requisiti, cioè certo, solo chi assume da lunedì dice chi ha contatti diretti e regolari con i minori, quindi direi che chi sta in casa quale che sia la mansione che svolge e sia pacificamente soggetto. Però per nuove assunzioni, io capisco che è una immane scocciatura, però diciamo che tra tante scartoffie inutili che abbiamo, questa è una scartoffia che io francamente sono contento di dover richiedere se vado ad assumere qualcuno che deve stare in casa e accudire i miei figli. Rimane la domanda, e qui però dobbiamo purtroppo lasciarci, Giampiero, della CEI, che ha chiesto proprio sul proprio sito: i vescovi, antipedofilia, obbligo di certificato per chi? Anche lì bisognerà capire, insomma, per chi sarà. Poi ci saranno, immagino, gli ulteriori chiarimenti la prossima settimana. Sì, no, a volte quando non ci piacciono le cose spargiamo incertezze anche dove non ci sono. Io questa norma così complicata non la vedo. Poi, un po' paradossale, come dicevamo, con i volontari non pagati, non hanno bisogno di questo, sì, magari questo va un po' aggiustato. Grazie Giampiero Falasca, grazie. Ciao. E grazie a Teresa, benvenuto, grazie. Buonasera. E buona continuazione. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, sempre a vostra disposizione per le vostre opinioni la pagina Facebook di Effetto Notte, i messaggi al 349-238-6666. A proposito del certificato antipedofilia che scatta da lunedì, di cui abbiamo parlato diffusamente prima, ci sono vari messaggi: chi è pro e chi è contro. Dice un'ascoltatrice: ottima cosa il certificato antipedofilia, era ora. Invece qualcun altro dice che è solo un inutile ulteriore orpello burocratico. Adesso però, prima di passare al prossimo tema, vi ricordo brevemente quali sono stati i fatti principali di oggi. Renzi è passato un'ora da Napolitano, poi è stato in visita anche dal Papa. Avanti, ha detto Napolitano, con riforme e documento economico finanziario. E per la spending review la Farnesina, Ministero degli Esteri, cioè ha chiuso 4 ambasciate. La Banca Centrale Europea è pronta all'acquisto di bond per 1.000 miliardi, effetto Draghi sullo spread, il tasso dei BTP al minimo storico. Il Movimento 5 Stelle sceglie 73 candidati alle europee, hanno votato in 33.000 online, blitz di Grillo alla discarica di Malagrotta, ha detto nessun dubbio, vinciamo noi. Discarica di Bussi, i PM durante il processo accusano, noti da 40 anni, gli effetti devastanti del sito chimico vicino Pescara. Afghanistan sale il pericolo di attentati nel paese in vista delle elezioni di domani, è stata uccisa oggi una giornalista tedesca. E a proposito di pedofilia, ve lo ricordo, da lunedì scatta l'obbligo per le assunzioni di persone che lavorino a contatto con minori di certificato antipedofilia. E poi, secessionisti veneti arrestati, il loro leader, se davanti al giudice, si è dichiarato prigioniero di guerra. Adesso invece parliamo appunto della maxi discarica dei veleni a Bussi. Ne stanno venendo fuori moltissime, no? Ultimamente con le inchieste dall'Ilva, Porto Tolle, Tirreno Power, la Terra dei Fuochi. E adesso si parla anche della maxi discarica dei veleni a Bussi, la discarica Tremonti di Bussi sul Tirino, il fiume Tirino vicino Pescara, discarica dell'ex Mont Edison. E pare dalla requisitoria di oggi, cioè dalla ringa dei PM, dell'accusa insomma, che il polo industriale chimico di Bussi fino a tutti gli anni 60 ha sversato una tonnellata al giorno di veleni residui della produzione nel fiume Tirino, affluente del Pescara. Poi l'acqua ha raggiunto, l'avete sentito anche nei giorni scorsi, almeno 700.000 persone negli anni che per anni hanno bevuto e consumato quest'acqua. Però prima di salutarlo, saluto subito il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, buonasera. Buonasera. Saluto anche la mia collega Raffaella Calandra, ciao Raffaella. Ciao Roberta. Chi ha seguito il caso, e ti vorrei chiedere appunto com'è andata la requisitoria di oggi. Mi pare che sia durata almeno 7 ore, no? A che punto è arrivata? Sì, è andata avanti per tutta la giornata e terminerà venerdì prossimo, quando ci saranno le richieste dei PM, che presumibilmente saranno richieste di condanna per gli imputati. In questo processo ci sono 19 imputati, mentre 27 sono le parti civili. In sostanza, come hai anticipato, nella requisitoria, quindi nell'atto d'accusa dei PM, che è conclusivo del processo, la procura ha sottolineato come veleni per una tonnellata al giorno erano sversati nel fiume negli anni 60. Ma soprattutto gran parte della requisitoria si è concentrata su quanto già molti decenni fa era a conoscenza della pericolosità di questi veleni, che erano a conoscenza sia degli amministratori locali, che nel 72 un assessore della città di Bussi aveva chiesto alla Mont Edison di rimuovere quei rifiuti interrati proprio per il rischio di inquinamento della falda acquifera, ma il rischio e le conseguenze di quei rifiuti tossici erano ben consapevoli, erano ben noti, secondo l'accusa, anche agli stessi ex manager della Montedison. Nella requisitoria, infatti, il PM ha mostrato un atto interno all'azienda, una sorta di comunicazione dopo una riunione in cui di fatto sembra che i manager fossero consapevoli delle conseguenze che la presenza di quei rifiuti tossici potessero esserci, diciamo, per le falde acquifere, quindi per l'inquinamento dell'intero acquedotto che rifornisce la Val Pescara. Questo è un punto centrale della requisitoria, cioè la consapevolezza del rischio, e quello che invece in tutti questi anni non è stato fatto, tant'è vero che solo adesso la vicenda è stata portata a galla con una notorietà maggiore con gli atti finali di questo processo, ma come il sindaco confermerà, era una cosa che era ben nota da decenni a tutta la popolazione locale, tant'è vero che sono rimaste lettera morta anche tutte le denunce che cittadini e amministratori in questi decenni hanno fatto. Raffaella, dimmi solo una cosa, secondo te entro quando si potrebbe avere la sentenza in questo processo? Allora, venerdì è la requisitoria, poi ci saranno le arringhe della difesa, 19, quindi almeno 2-3 diciamo udienze lo richiederanno, poi ci saranno eventuali repliche. Non conosco le ultime date del calendario del processo, ma io credo che nel giro di un mese e mezzo, insomma, prima dell'estate ci sarà la prima sentenza. Prima dell'estate, quindi. Grazie Raffaella Calandra. Ciao. Grazie Raffaella. Sindaco, quindi ha sentito, ma sono, come diceva Raffaella Calandra, cose a voi ben note da anni. Lei da quando è sindaco di Bussi? Da giugno 2013. Dal 2013, quindi in modo, diciamo, tempo relativamente recente. Sì. Ma lei è sempre vissuto da quelle parti? Io ho sempre vissuto da queste parti, ho lavorato in fabbrica, facevo parte del sindacato, ero responsabile della commissione ambiente. Diciamo che le conosco le cose. Quindi lei da quanto tempo è sindaco? Abbiamo detto dal 2013, però ha comunque vissuto e lavorato nel suo territorio. E da quanto tempo lei sente di queste denunce? Guardi, qui a Bussi ne abbiamo parlato da sempre, chi più chi meno, ma abbiamo convissuto con questa fabbrica. La nostra è una fabbrica paese, la fabbrica è distante 3 km dal paese. Queste problematiche le conosciamo, per adesso non poteva essere diversamente. Tenga conto che qui abbiamo lavorato con il piombo, qui abbiamo lavorato con il mercurio, qui abbiamo lavorato con cloroformio, clorometile, cioè tutti i prodotti che sappiamo da tempo che sono nocivi per l'ambiente e sono nocivi per l'uomo. Per cui poi l'abbiamo vissuto anche sulla nostra pelle. E poi il Bussi ha espresso negli anni una consapevolezza ambientale che non appare in Italia, proprio perché c'è da questo tipo di produzione. Abbiamo fatto lotte, abbiamo fatto rivendicazioni, abbiamo da sempre chiesto il miglioramento dell'ambiente. Qui a Bussi non si lottava solo per il salario o per le qualifiche, abbiamo fatto lotte serie per il problema ambientale. Queste cose le abbiamo sempre denunciate, in passato non c'era come dice, un'educazione ambientale come c'è oggi e le nostre denunce sono rimaste lettera morta. Io voglio sottolineare che della discarica di cui si parla, la Tremonti, in realtà poi a Bussi ne sono altre due discariche, c'è un sito ancora attivo. Ma tutte riempite dalla Montedison o anche da altri? Ma guardi, io le posso dire questo perché ho i documenti. Della discarica Tremonti, alla discarica Tremonti si sono sotterrati i pesanti clorometalli, che sono uno dei rifiuti più nocivi, e che lì si sotterravano questi pesanti, ne era a conoscenza la regione Abruzzo, il comune di Pescara, la provincia di Pescara. Sto parlando degli anni 71-72. Ci sono dei documenti che lo dicono, documenti ufficiali firmati, e c'è anche la data di quando sono cessati gli interramenti, il 29 maggio 1972, per cui le istituzioni dal 1972 sapevano che lì c'erano sotterrati questi rifiuti tossici che andavano tolti, perché essendo questo sito a ridosso del fiume Pescara, un giorno o l'altro avrebbero prodotto l'inquinamento del fiume. Nessuno ha fatto niente. Senta Salvatore Lagatta, è vero che lei ha chiesto quantomeno che vi sia riservato gli abusi lo stesso trattamento che per la Terra dei Fuochi? Guardi, no, io non ho detto questo, ma è chiaro che lo diciamo adesso se serve, lo diremo lunedì quando faremo un consiglio comunale straordinario, ovvero che cosa chiediamo? Che a Bussi vengano destinate delle somme aggiuntive rispetto a quelle che già ci sono per poter fare la cosiddetta bonifica totale, perché oggi le somme messe a disposizione non bastano per fare per raggiungere questo obiettivo. Va detto che il Ministero dell'Ambiente non ha somme a disposizione, non ha risorse finanziarie a disposizione, per cui deve esserci un intervento da parte dello Stato per dotare il Ministero dell'Ambiente delle risorse per fare le bonifiche non solo a Bussi ma anche per gli altri sini italiani. È dal 2009, lo dico come denuncia, è dal 2009 che il Ministero dell'Ambiente non ha le risorse che servono per fare le bonifiche di emergenza per poi farle magari a danno di chi ha inquinato. È chiaro, chiediamo che come per la terra dei fuochi si metta a disposizione di Bussi un'altra dotazione finanziaria che in questo momento non c'è. Ma voi la gatta è, con l'acqua adesso come siete messi? Cioè, si parlava in particolare appunto della falda acquifera inquinata, di acqua che è arrivata anni e anni. Allora guardi, l'acqua inquinata veniva prelevata dai pozzi di Sant'Angelo, che sono dei pozzi a valle del sito industriale. Nel 2007, quando si scoprì che questi pozzi erano inquinati, si chiusero, ci fu un'emergenza idrica per la vallata del Pescara e furono aperti nuovi pozzi a monte del sito industriale proprio a Bussi, e noi diamo a Pescara 1000 litri secondo di acqua purissima. Guarda, Bussi non è quello che si immagina, Bussi è un paese che è uno dei fiumi più puliti d'Italia, dove l'acqua si beve ancora dal fiume, dove ci sono canoe che girano, dove ci sono migliaia di pescatori. Si è dipinto Bussi un po', come dice, in modo infernale, ma Bussi non c'entra con il sito industriale, Bussi è a monte, le assicuro che è un paese da visitare. A valle purtroppo abbiamo questo grande problema. Grazie Salvatore Lagatta, poi naturalmente seguiremo lo svolgersi, l'evoluzione di questo processo. Grazie intanto. Buonasera. Ci saluti Bussi. Grazie. E ci sono aggiornamenti per chi viaggia, tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Adesso lo spazio dell'Europa, come sempre qui effetto notte, lavorare all'estero, l'Europa quindi non solo come un'area politica ma anche come una zona di approdo lavorativo, complice naturalmente la crisi, i giovani italiani, lo sapete, cosa ormai diffusa da tempo, guardano sempre di più all'estero, sviluppano delle competenze utili per trovare lavoro oltre confine. Sergio Nava ne parla con Jessica Bedo, consulente Eures per la provincia di Padova, e gli chiede quanto è importante avere una mentalità europea per trovare lavoro appunto nell'Unione Europea. Europa 24 notte. Sicuramente è importantissimo, perché il candidato quando si rapporta con un'azienda che non risiede in Italia deve sicuramente avere in mente che la mentalità dell'azienda può essere molto diversa dalle aziende italiane a cui è abituato e va incontro anche a competenze richieste diverse, prima fra tutte la competenza linguistica, e poi appunto è una diversità anche dal punto di vista di richiesta di requisiti. L'azienda straniera va per competenze, mentre magari l'azienda italiana è più legato a cosa hai fatto e che titolo di studio hai acquisito, mentre l'azienda straniera chiede proprio cosa sai fare e come lo sai fare, e poi approfondisce con chi lo hai fatto, come l'hai fatto, però l'importante è cosa sai fare per l'azienda straniera, e i ragazzi vedo che si stanno un po' abituando a questa mentalità diversa e stanno mettendo in pratica appunto anche delle candidature diverse, dei curricula diversi per poter potersi approcciare a un'azienda che è magari straniera e ha un altro modo di valutare, insomma. Quindi possiamo dire che nella fascia, diciamo, under 30 state notando un grosso cambiamento negli ultimi anni? Assolutamente sì, per quanto riguarda anche la competenza linguistica. I ragazzi ormai sanno che se vogliono cercare un'opportunità di lavoro oltre confine devono avere una competenza linguistica di quel paese abbastanza elevata da poter almeno affrontare il colloquio telefonico in maniera tranquilla e serena. Se non hanno questa competenza, loro ormai sanno che non possono accedere a un mercato internazionale europeo, e quindi già questo noi lo vediamo molto cambiato. I ragazzi cercano di fare esperienza all'estero, di soggiorni studio e di appunto soggiorni proprio anche brevi, lavorativi durante l'estate in un altro paese per acquisire la competenza, che effettivamente è importantissima e fondamentale. E poi noi vediamo che cercano proprio delle informazioni su come posso fare la mia candidatura in maniera più diciamo così soddisfacente per un'azienda che proviene da un paese diverso dal mio, e quindi si informano proprio su che modelli di curricula stendere. Si sta un po' intaccando quel modello di devo trovare lavoro sotto casa a tutti i costi, cioè sta un po' scomparendo, ci stiamo evolvendo anche noi? Sì, confermo questo. Ormai i ragazzi sanno che per avere una possibilità, e soprattutto una possibilità legata magari al percorso di studi o alle propensioni che loro hanno, si devono guardare effettivamente intorno, al di là del proprio paesino, perché trovano molte più opportunità in uno spazio più aperto, qual è l'Europa, insomma. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E vi ricordo domani l'Euro reportage di Sergio Nava alle 7.15 del mattino sull'Europa, che si prepara alle elezioni europee. Prima tappa è Padova. Ma adesso saluto il vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore, detto Chicco Padula. Ciao Chicco. Buonasera Roberta, buonasera a tutti. Sì, mi pare che qualcosa che sembrava sepolto e dimenticato dalle tante questioni invece riemerge. No, riemerge come un tormentone infinito. La TASI. Parliamo ancora di TASI. Di TASI, ma anche di TARI, che è la tassa sui rifiuti. Pensavamo, come dicevi tu, che tutto fosse ormai sistemato, in realtà non è così. Il Parlamento deve ancora approvare un decreto che, diciamo, deve correggere alcune cose che riguardano l'applicazione delle aliquote, la possibilità per i sindaci di aumentare. E ieri sera la commissione della Camera ha finito e di nuovo, insomma, ci arriva questa sorpresa, l'incognita che poi queste tasse, sia sulla casa, quindi la TARI, sia la tassa sui rifiuti, possono in realtà nascondere delle sorprese spiacevoli per i contribuenti, per le famiglie e per le imprese, perché il rischio che si vada verso, insomma, la possibilità che i sindaci utilizzino, diciamo, in modo non proprio correttissimo a mio avviso, questa possibilità di aumentare le aliquote è reale, no? E questo vale in primo luogo per la casa, per la prima casa. Noi sappiamo che tutta questa vicenda nasce dall'idea che doveva essere soppressa l'IMU sulla prima casa. L'IMU sulla prima casa in realtà è stata sostituita da questa nuova imposta, ha cambiato nome, e oggi scopriamo che in alcuni casi, forse anche in molti casi, la nuova TASI, diciamo, potrebbe addirittura essere più elevata dell'IMU che doveva scomparire. Pensa un po'. Per le famiglie, esatto. E invece per le imprese si profila, direi, quella che noi chiamiamo una stangata sul fronte della raccolta dei rifiuti. Insomma, non proprio. Evviva, delle buone notizie, tanto per cambiare. Sembra di buttarla fuori dalla finestra, poi rientra dalla porta. Grazie, esatto. Salvatore Padula. Ciao, Chicco. Buonasera a tutti. Ciao, buon lavoro. Ciao. Vedo Nicola che scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: il certificato dove andrei a farlo? In comune? Non so se Nicola l'ha scritto prima della spiegazione, cioè in tribunale bisogna andarlo a chiedere, ci spiegava prima l'avvocato. Ma adesso invece proiettiamoci verso il tempo che farà col colonnello Mario Giuliacci. Mario, colonnello. Ciao Roberta, buonasera. Almeno dacci tu buone notizie, visto che qui rispunta la TASI. Nel senso che la perturbazione che è giunta oggi e che ha portato nuvole su tutta l'Italia, piogge su gran parte dell'Italia, domani ancora insisterà su quasi tutta l'Italia, eccetto le regioni di nord-ovest, dove già dal mattino tornerà al sereno, mentre sull'Emilia, Romagna e tutto il centro-sud ancora piogge e sulle regioni meridionali anche temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio migliora su quasi tutto il centro-nord, mentre le piogge e i temporali insistono sulle regioni meridionali. Arriviamo a domenica bello su tutto il centro-nord, una giornata bella e soleggiata con temperature in rialzo, ancora insistono dei piovaschi qua e là sulle regioni meridionali, ancora qualche temporale sulle estreme regioni meridionali. Poi arriveremo lunedì, in cui il tempo volge decisamente al bello, certo ancora un po' di nuvole sulle regioni meridionali. Martedì, mercoledì e giovedì tre splendide giornate primaverili con temperature che addirittura al centro-nord potrebbero raggiungere valori massimi intorno a 25-26 gradi, quindi dal fresco un brusco balzo all'insù. Evviva! Evviva la primavera! Evviva. Grazie colonnello Giuliacci, buon tempo a te! Grazie Roberto, un saluto. Ciao Mario, www.meteogiuliacci.it se volete poi le altre informazioni nel dettaglio, lo volete seguire anche nei prossimi giorni. A tra poco!